Lo scorso 6 gennaio, Epifania, è uscito il nuovo singolo delle altre DB che si chiama Merighi. Insomma, ci sono tantissime ragioni per parlarne. Noi siamo al telefono con Giacomo Gelati, che saluto, buongiorno. Ciao, buongiorno, è un grande piacere essere da voi, ciao. Intanto questo nuovo singolo doveva essere presentato in quello che oramai è diventato una tradizione, no? Il concerto dal terrazzo di Piazza dell'Unità del 6 dell'Epifania, però la pioggia ha rovinato un po' tutto, ma non demordiamo. No, assolutamente, non demordiamo, è incredibile come negli anni più caldi della Terra l'unico giorno in cui viene a piovere è il 6 di gennaio, dopo tante volte che abbiamo fatto questo concerto. Sì, volevamo approfittare del fatto che ci fosse il singolo in uscita per presentarlo ufficialmente dal balcone, che non è propriamente un locale, ma è sempre una bella situazione perché appunto la gente si ferma sotto, c'è la gente ai balconi dei palazzi davanti, quindi è veramente sempre una situazione curiosa. Quindi non demordiamo, ci riproviamo questo sabato sempre alle 16, che è un buon orario per non disturbare la gente, e poi vediamo, insomma. Certo, quindi insomma è solo rimandato. Ti chiedo una cosa ancora sul concerto dal balcone, insomma, volete imitare i Beatles? Allora, nasce più o meno con quell'intento, cioè ci ritrovavamo sempre una decina di anni fa quando abbiamo cominciato per farci un brindisi di inizio anno, e così per scherzo ci siamo detti, beh, potremmo fare una cosa curiosa, un concerto in casa, ma no, non in casa, dai, facciamolo dal terrazzo. Quindi non è una situazione confortevole come quella famosa dei Beatles, perché proprio c'era spazio anche per le telecamere e per renderla proprio una situazione più agevole. Quello è proprio un balconcino, quindi si suona tutti in fila, però insomma è estremamente estremamente divertente da fare. Allora, parliamo del nuovo singolo Merighi, e insomma c'è, come dire, tra voi e il protagonista molto sapore di Radio Città Fujiko in questa cosa. Assolutissimamente sì, lo stavamo provando quest'estate e finiamo di fare il primo giro di prove, ci siamo guardati in faccia e mi hanno detto, ma questa canzone secondo me piacere a Merighi. Allora gli abbiamo mandato scherzosamente un messaggio dicendo, guarda, ti abbiamo dedicato una canzone, ti piacerebbe, cioè ti dà fastidio se la intitoliamo a te. Abbiamo trovato dall'altra parte una persona stracarica, stradisponibile, ci ha mandato la foto, insomma ha fatto tutto quello che c'era da fare, quindi ci siamo divertiti. Quindi sì, sapore di Radio Città Fujiko, siamo contentissimi. Allora, lo esplicito perché magari non tutti sanno, allora le altre DB, in particolare Giacomo, protagonista di Anche Buona, una trasmissione che è nel nostro palinsesto il lunedì alle 13, mentre Fabio Merighi, conduttore storico di Glamorama, in onda il giovedì sera alle 21, ma ovviamente non è solo questo, insomma è anche una delle colonne portanti del covo. Esatto, colonna in tutti i sensi, perché noi l'abbiamo conosciuto come il classico altone che si mette davanti durante i concerti e che copre la visuale di quelli dietro, però è veramente una persona che dà grande motivazione a chiunque salga sul palco, perché è famoso per la frase come on, e quindi insomma è sempre un piacere andare a suonare al covo quando c'è anche lui lì davanti. E poi insomma Glamorama è una trasmissione anche di riferimento per tutti quelli come noi che amano un certo tipo di sonorità, e loro sono bravissimi a scovare grandi novità eccetera, quindi io di solito vado un po' a rubargli le canzoni che poi andrò a mettere nei DJ set che vado a fare, quindi loro sono dei maestri per me. Senti, ma questo singolo anticipa qualcosa? Assolutamente, sì. È da un po' che ci stiamo lavorando, non abbiamo mai fatto in tanti anni un EP, nel senso che siamo sempre andati avanti ad album. Quest'anno, anche complice un po' di vicissitudini familiari, io sono diventato papà, eccetera, insomma la disponibilità del tempo va riducendosi, quindi ci stiamo concentrando sul fatto di far uscire un EP. Adesso non posso anticipare nomi eccetera, ma sarà una cosa molto curiosa. Vorremmo far uscire quest'estate, a giugno possibilmente, perché abbiamo già in ballo qualche attività dal vivo, e quindi sì, si tratterà di un EP nel quale appunto è contenuto anche Merighi. Abbiamo già lanciato qualche sassolino nello stagno per le ascoltatrici e gli ascoltatori, ma dovranno, come dire, rimanere vigili per avere ulteriori novità. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Merighi, ma se vogliono sentirlo dal vivo, ricordo l'appuntamento appunto in Piazza dell'Unità sabato prossimo 13 gennaio. Grazie mille Giacomo. Grazie mille a voi, è stato un piacere.